Gaza ha aperto una frattura nella storia che studiamo, nelle parole che usiamo, nei futuri che immaginiamo. In Europa, tra i miei più traditi e i movimenti che resistono, qualcosa nel modo di fare storia è cambiato. Questo è Fare Storia ai tempi del genocidio a Gaza ed è un tentativo di tenere insieme metodo, dolore e impegno politico. Il genocidio a Gaza ci ha fatto fermare, letteralmente con due scioperi e poi anche interiormente. Non è l'unica guerra e non è l'unica tragedia in corso nel mondo in questo momento. Eppure, qui in Europa, quello che sta succedendo a Gaza ha creato un prima e un dopo per i movimenti di solidarietà, per i governi, per la letteratura, per i nostri desideri di futuro. E per chi fa storia, cosa è cambiato qui? Nell'Europa della Shoah e del colonialismo, del fascismo, trasformato in custode dei me più, di governi reazionari abili nel rimescolare le carte delle identità nazionali. Le prove del dramma palestinese scorrono sui nostri telefoni, sui social si moltiplicano paragoni, semplificazioni, polarizzazioni. Cambiano le domande degli studenti, cambia il modo di guardare al passato, cambia la necessità di prendere parte. Come tenere insieme allora metodo, dolore e passione politica? Non è semplice. E da sole ci sentivamo un po' smarrite. Così abbiamo chiesto ad esperte ed esperti di riflettere insieme a noi. Tra le persone con cui abbiamo chiacchierato, Cenzo Traverso, storico del Novecento, della Shoah e dell'antisemitismo. Tra le sue ultime pubblicazioni, Gaza davanti alla storia. Come prima cosa, gli abbiamo chiesto una riflessione sulla memoria europea e su come questa è scossa da terribili fatti in Palestina. La memoria dell'Olocausto è diventata centrale nella cultura e nello spazio pubblico del mondo occidentale negli ultimi 40 anni e questo è il risultato di un lungo, faticoso, doloroso, contraddittorio processo di elaborazione della memoria o di elaborazione del lutto dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ma la memoria dell'Olocausto ha acquisito questa posizione centrale nel nostro così paesaggio memoriale a discapito di altre. La memoria del colonialismo non ha la stessa una posizione comparabile, non ha una posizione centrale. E oggi, diciamo, le politiche nei confronti di Israele e il sostegno al genocidio di Gaza sono anche rivelatori di un'eredità del colonialismo, di una pregnanza, diciamo, di questo passato europeo coloniale e imperiale che non è stato elaborato. Come il lavoro che abbiamo fatto nei confronti dell'antisemitismo e dell'Olocausto non è stato fatto nei confronti del passato coloniale, e questo vale per l'Italia in particolare, direi. E quindi questo spiega il fatto che oggi l'antisemitismo non abbia più diritto di, come dire, sia ormai discreditato, sia stigmatizzato, condannato, considerato a giusto titolo inaccettabile, ma al punto da essere strumentalizzato, come abbiamo visto, mentre invece l'islamofobia, che è, diciamo, radicata in un antico pregiudizio razzista nei confronti del mondo extraeuropeo e che è anche un retaggio del colonialismo, ecco, l'islamofobia sta esplodendo, vuol dire, sta conoscendo una diffusione endemica e alla fine, ecco, questa pretesa lotta contro l'antisemitismo che di fatto si traduce in un filosionismo, un sostegno incondizionato a Israele, è anche funzionale all'islamofobia, alla xenofobia e diciamo all'oppressione delle minoranze musulmane non bianche di immigrati che sono una parte importante delle società europee, e questo vale anche per l'Italia oggi. Io penso che le conseguenze del genocidio a Gaza sulla memoria europea e al di là dell'Europa, perché stiamo parlando della memoria del mondo occidentale. Non direi in questo caso della memoria globale, perché l'Olocausto non occupa la stessa posizione nel paesaggio così della coscienza storica o della memoria collettiva in Germania, in Europa, che so, in Asia o in Indonesia. Non è possibile generalizzare, anche se esiste una memoria globale, ma le conseguenze dell'Olocausto, a mio avviso, sono già percepibili, sono notevoli e devastanti, perché quello che è avvenuto a Gaza è l'epilogo di una tendenza che si è già manifestata da tempo, da parecchi anni, ma un genocidio come quello di Gaza è una svolta qualitativa. Per la prima volta la memoria di un genocidio o di quello del genocidio che è all'origine del concetto stesso di genocidio, vale a dire lo sterminio degli ebrei in Europa durante la Seconda Guerra Mondiale, viene strumentalizzato e usato per legittimare un nuovo genocidio. Ecco, questo non era mai avvenuto in passato. Al contrario, la memoria dell'Olocausto è stata decisiva nel processo di costruzione di una coscienza civile, perlomeno in Europa. Vale a dire, la memoria dell'Olocausto è stata importante per costruire movimenti contro il razzismo, per aiutare il riconoscimento di altre forme di violenza o di altri genocidi, per lottare contro xenofobia e discriminazione. Oggi la memoria dell'Olocausto viene in larga misura utilizzata da Israele, con il consenso o il sostegno di larga parte dei media e dei governi occidentali, per legittimare o accettare un nuovo genocidio. Le conseguenze di questo fatto sono gravissime, perché discreditano la memoria dell'Olocausto, insultano e offendono le vittime dell'Olocausto e creano un equivoco gigantesco. Vale a dire, per le ragioni che indicavo, la memoria globale dell'Olocausto non è quella dell'Europa occidentale, si è instillato il dubbio. Quello che i negazionisti hanno sempre ripetuto, che l'Olocausto è un'invenzione, che l'Olocausto non è mai esistito, le camere a gas non sono mai esistite, sono un'invenzione delle lobby sioniste di Israele, funzionali alla difesa di alcuni interessi. Ecco, questo discorso negazionista che abbiamo sempre combattuto oggi viene accreditato dalla politica di Israele, dal sostegno che gli Stati Uniti offrono a Israele e l'Europa, l'Unione Europea nel suo insieme. Quindi non mi stupirebbe se questo discorso negazionista conoscesse nel prossimo futuro, ecco, un'amplificazione. L'Italia, nel contesto della solidarietà alla Palestina, ha avuto un ruolo particolare, non solo per la massiccia partecipazione alle manifestazioni, ma anche per una storia di lunga data tra il Medio Oriente e i movimenti politici in Italia negli anni 70 e 80. Nonostante ciò, come nel resto d'Europa, le destre che ci governano si fanno paladine della memoria dell'Olocausto. Sì, ma il caso italiano, a mio avviso, non è eccezionale, è emblematico perché Italia siamo in presenza di un governo che è l'erede del fascismo, che ha promulgato una delle leggi antisemite e che ha partecipato alla persecuzione degli ebrei. Ecco, gli eredi del fascismo, non, come dire, pentiti e anzi orgogliosi del loro passato, oggi sono complici di un nuovo genocidio attraverso il loro sostegno incondizionato a Israele. Il caso italiano è, sì, se volete, paradossale, ma io direi emblematico, perché è diciamo, la versione estrema di una tendenza molto più ampia. E potremmo dire la stessa cosa per Marine Le Pen in Francia, per molti altri governi europei, pensiamo al caso di Orban, che al contempo antisemita e filosionista, pensiamo agli Stati Uniti, dove c'è la più grande, più importante comunità ebraica, ma dove le correnti filosioniste più estreme, radicali, non sono quelle della comunità ebraica, ma piuttosto correnti suprematiste bianche, razziste e evangeliche. Ecco, quindi c'è una riconfigurazione generale del paesaggio, ma il fatto che le estreme destre, che io chiamo postfasciste, che sono una costellazione molto eterogenea, ma tutte schierate a sostegno di Israele, è un fatto rivelatore di un mutamento storico. Nella chiacchierata con Enzo Traverso lo sguardo si allarga. Mettiamo insieme antisemitismo e colonialismo. Capiamo cosa ha conservato la memoria europea e cosa è escluso, e come questo processo abbia delle ripercussioni nelle politiche europee, in particolare quando decide chi è un cittadino europeo. Ma io sono convinto che l'islamofobia contemporanea così diffusa, che può spiegare, come dire, si può analizzare, interpretare attraverso la categoria di orientalismo che è stata coniata da Edward Said ormai quasi una cinquantina d'anni fa, più di 40 anni fa in ogni caso, riproduca molti tratti dell'antisemitismo classico. La figura del terrorista, del fondamentalista islamico terrorista, in alcune, se consideriamo l'iconografia delle campagne islamofobe di questi anni, il fondamentalista islamico, terrorista islamico, riproduce i tratti del giudeo bolscevico degli anni 20, con la sua alterità fisica, con tutta una serie di stereotipi che riappaiono. Fino alla Seconda Guerra Mondiale esisteva una sorta di dicotomia che era quella, diciamo, di un razzismo che aveva due componenti: un razzismo coloniale e imperiale, che vedeva un'alterità negativa, come la definisce Said, al di fuori del mondo occidentale, del mondo coloniale. C'era una sorta di separazione fisica, geografica, spaziale. Questa alterità negativa del mondo non europeo era indispensabile per definire negativamente l'europeo attraverso una serie di gerarchie che erano culturali, razziali, antropologiche, politiche, giuridico-politiche, vale a dire il cittadino è europeo e il suddito o l'indigeno appartiene al mondo coloniale, eccetera. E poi c'era una seconda componente razzista, l'antisemitismo, l'ebreo come l'incarnazione di un'alterità negativa dentro il corpo delle nazioni europee. Quindi un'alterità negativa che andava sradicata, e questa è un po' l'origine del genocidio, dell'olocausto. Dopo la Seconda Guerra Mondiale l'antisemitismo ha conosciuto un declino incontestabile, non dico una scomparsa, ma un declino, perché l'antisemitismo non ha più diritto di cittadinanza, diciamo, persino nei discorsi ufficiali. In un certo senso l'olocausto, la Shoah, è stato l'ascesso, ecco, che ha in parte guarito l'Europa da questo pregiudizio che fa parte del suo codice genetico, perché l'antisemitismo è costitutivo, ecco, dei nazionalismi europei che hanno dato forma agli stati-nazione che oggi conosciamo. Ma dopo la Seconda Guerra Mondiale, al contrario, con la decolonizzazione, la globalizzazione e l'immigrazione in Europa di milioni di non europei e di non bianchi, arabi, africani, asiatici. Ecco, questa alterità negativa che era proiettata fuori dell'Europa ora appare dentro l'Europa e dentro il mondo occidentale e svolge una funzione analoga a quella dell'antisemitismo classico, diciamo, l'antisemitismo che esisteva fino agli anni tra le due guerre. Nei giorni di preparazione di questo speciale audio di Van Loon si discute di una legge italiana sull'antisemitismo. Abbiamo chiesto a Enzo Traverso un parere. Leggo questa legge, questo progetto di legge, in un modo piuttosto semplice. Con il genocidio a Gaza, la promulgazione di una legge di questo tipo è uno strumento che permette di reprimere tutte le forme di dissenso e di reprimere i movimenti antirazzisti. E questo si è visto negli Stati Uniti, c'è stato un movimento molto, molto importante contro il genocidio a Gaza, nel quale, credo vada sottolineato, esisteva una componente ebraica molto importante, non di individui, di personalità, ma di organizzazioni, di associazioni, che come associazioni ebraiche denunciavano la politica israeliana e l'antisemitismo a Gaza. Ma questa legge non fa che sancire in un certo senso un dato di fatto che quello parlavamo, vale a dire il razzismo, la xenofobia è sempre stato storicamente la ricerca di un capro espiatorio. Come storiche e storici è necessaria una massima attenzione di fronte a questa proposta di legge, che dimostra ancora una volta come la memoria e il suo uso non siano mai neutri. Leggere, comprendere, prendere parte agli spazi di conflitto, anche sull'uso strumentale della storia, è una nostra responsabilità. Non vorremmo mica lasciare questo campo solo alla destra o agli slogan da social? Fare storia ai tempi del genocidio a Gaza è un podcast di Van Loon, il programma di storia di Radio Città Fujiko. Si ascolta sul nostro sito radiovanloon.info, sul sito della radio e sulle piattaforme podcast.